Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo tema di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori è un tema nel quale ci stiamo aggrovigliando e arrovellando un po' tutti, è la nuova Trise 2014, ma in questi due mesi e poco più che mancano alla fine del 2013 c'è ancora qualcosina da pagare. Non è l'IMU, o forse lo è, e c'è sicuramente la TARES. Insomma, una giungla nella quale cerchiamo di orientarci insieme all'Associazione Difesa Consumatori. Ben trovato il presidente Carlo Garofalo Follini. Ciao Carlo. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, bisogna dare le informazioni corrette, perché poi si rischia spesso di fare confusione. Partiamo dal giugno scorso, dall'estate scorsa. Abolita la prima rata dell'IMU, è stato detto poi all'inizio, mi pare di settembre, a metà settembre, che l'IMU appunto era stata completamente abolita. Però mi risulta che la seconda rata, quella con scadenza a dicembre, formalmente ancora non sia abolita, è così? Certo, in questo momento, come stanno le cose, la seconda rata non è ancora sospesa e l'emendamento, la legge che ancora ne decreta l'alienazione, ancora non c'è traccia, quindi il rischio è di doversi pagare la seconda rata dell'IMU. Fermo restando che per le seconde case, gli esercizi commerciali e quant'altro, non è cambiato nulla. Ma è anche vero, ed è bene ricordare, che se da un lato il governo ha o sta tentando di rivoluzionare quella che era l'IMU e la tassa sulla prima casa, comunque parlando del 2013 dobbiamo ricordarci l'introduzione della nuova tassa, che è la TARES. Questa nuova TARES, che dovrebbe riguardare appunto prevalentemente i rifiuti e che incide appunto sul 2013 e poi sostanzialmente cambia nome per il 2014. Andiamo per gradi. Cosa succede in questa parte finale dell'anno? Guarda amico, veramente bisogna un po' ricostruire tutto per dare un senso logico e capire veramente fino a che punto stanno imbrigliando le carte, al fine di rendere quasi incomprensibile quelli che sono i passaggi che il governo sta facendo su questa tassa della prima casa. Allora, ricordiamoci che nel 2012 avevano introdotto il governo Monti l'IMU, che sostanzialmente già doveva essere un'imposta municipale unica, quindi raggruppare la tassa dei rifiuti, la vecchia TIA, l'IRPEF comunale e l'ICI. Hanno mantenuto la TIA e hanno mantenuto l'IRPEF comunale, addirittura aumentandola, e hanno trasformato l'ICI in IMU, aumentando la rendita catastale del 60%. Siamo arrivati appunto nel 2013, in questa situazione che poi con l'effetto delle nuove elezioni hanno sospeso l'IMU, hanno sospeso la prima rata, come vedete è in ballo la seconda rata, ma hanno introdotto la TARES. Ricordiamoci che la TARES è una nuova tassa dei rifiuti, e il governo è andato anche qui a rivedere, rivoluzionandone un po' gli importi, determinandone delle quote fisse sulla base di quelle che sono delle esigenze che i comuni hanno per garantire dei servizi. E ricordiamoci bene che anche se stiamo pagando la TARES in questo momento, nel saldo dell'ultima rata di dicembre avremo il calcolo retroattivo da gennaio fino a dicembre su quelli che sarà il nuovo metodo di calcolo in cui il governo ha pensato bene di tassare per l'ennesima volta i consumatori. Nel 2014 ci troveremo la TARES. E dunque sarà un percorso ancora lungo, mi pare di capire, perché di TARES, che ha una componente maggiorativa e una componente una tantum, effettivamente non sappiamo quanto ci troveremo a pagare per i rifiuti. E l'anno prossimo c'è questa TRISE, che di fatto è composta dalla TARI e dalla TASI. Evitiamo i giochi di parole, le facili battute, però sostanzialmente i servizi indivisibili e poi la quota che riguarda appunto i rifiuti, basata, se non sbaglio, sulla rendita catastale. Allora amico, quando parliamo proprio di queste tasse qua e parliamo della tassa della prima casa, mi sembra veramente di assistere al gioco delle tre scatoline dove devi indovinare dove sta la veglia. dove alla fine le movimentano sempre e tu cerchi sempre di credere che qualcosa vanno a fare per farti pagare tasse o meno, o cercare di non fartele pagare sulla prima casa, immancabilmente, hai visto anche negli ultimi anni, come abbiamo detto poco fa, tutta l'ennesima tassa sulla prima casa. Allora, il prossimo anno pagheremo queste tese. Non si capisce bene esattamente quanto che inciderà, però già dalle prime proiezioni una famiglia media che abiterà su un appartamento di 185 metri quadri, cioè, e ha un figlio barra due, si troverà a pagare mediamente su 345 euro all'anno. Un costo che, a detta di qualcuno, è leggermente inferiore all'IMU, ma ricordiamoci che non prendendo degli sgravi fiscali come poteva avere l'IMU nei confronti di quelle famiglie numerose, in realtà poi scopriremo che andremo a pagare di più, perché sostanzialmente, a nostro avviso, è vero che magari chi è possessore della prima casa potrà pagare qualcosina in meno rispetto a prima, però questa volta, rispetto alla prima volta, i cervelloni che stanno in governo hanno pensato bene di ampliare la platea, rivolgendola a tutti e addirittura coinvolgendo questa volta nel pagamento anche chi è in affitto rispetto a quanti invece prima non pagavano perché non beneficiavi della seconda casa. Quindi sostanzialmente la pagava chi metteva, prima la pagava chi aveva in affitto la casa, dava in affitto l'immobile, mentre adesso ne pagherà in percentuale anche chi dell'immobile in affitto ne gode un pochino. Detto questo, ci fa capire come sulla prima casa il governo ne sta facendo una politica di accanimento, perché ribadisco, noi anche come Adico siamo fermamente contrari a dover pagare i tassi sulla prima casa per un semplice motivo, che in Italia siamo il primo paese al mondo e in Europa che le persone investono e si sacrificano una vita di oltre 20 anni per potersi acquistare la propria abitazione, e in secondo luogo perché gli interessi e l'indebitamento che gli italiani hanno se acquistano la prima casa sappiamo benissimo che sono anche i più alti d'Europa, quindi già questo ci fa capire come gli italiani si sacrificano per acquistarsi la casa. Passare non la troviamo affatto corretto e neanche giusto. Ne torneremo a parlare appena ci saranno notizie più chiare, evidentemente metto solo due date di calendario, entro dicembre, appunto comunque entro dicembre va pagata questa TARES, ci diranno come e quanto, e poi già a gennaio ci dovrebbe essere la prima rata della nuova TRISE, quindi a cavallo delle festività natalizie. Ne parleremo più avanti, intanto ringraziamo l'Adico col presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.